difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Italiani brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Di santi, di poeti, di marchesi, navigatori, ma tutti vi vorrebbero tra le dita la Montessori. Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora circa Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, oppure su Twitter se vi piace cinguettare @luogoc, oppure scrivete sulla nostra mail luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è il nuoto e lo sport più completo e passate diciamo le feste ci ritroviamo tutti con qualche chilo in più da smaltire e proprio in questi giorni stiamo valutando l'attività che meglio si adatta a noi. C'è chi inforca la bici e va in giro nel weekend, chi preferisce il jogging insomma dopo lavorativo, pioggia permettendo sempre, chi la classica palestra che abbandonerà sicuramente dopo qualche mese e chi prende la fatidica decisione e dice mi iscrivo in piscina. Però intraprendere un percorso diciamo di attività in piscina che cosa vuol dire? E ne parliamo con insomma un esperto in materia, ovvero in collegamento telefonico abbiamo Fabio Scozzoli, classe 88, plurimedagliato campione di nuoto di cui insomma ricordiamo i successi, diversi successi per la verità, oro nei 100 rana Istanbul 2012, oro 100 rana Debrecen sempre 2012, oro 100 rana a Chartres 2 anni fa infatti e argento a Shanghai 2011 per i 50 e 100 rana. Scozzoli, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Senta, io appunto accennavo appunto che passate le feste ci ritroviamo tutti con qualche chilo di più, ma questo è un problema immagino che non la tocca. No, a dire la verità anche noi nuotatori siamo abbastanza liberi nelle feste perché generalmente c'è un appuntamento importante della stagione invernale che si svolge a metà dicembre e poi c'è un piccolo stacco diciamo in cui comunque ci alleniamo però magari non stiamo così attenti alla dieta, quindi durante le feste anche noi ci diamo con la forchetta, quindi sicuramente anche per noi rientrare dalle feste bisogna smaltire qualche chilo in più. Senta, ma quando forchetto magari dai. È stato sicuramente più onesto. Senta, quando è nata la sua passione insomma per questo sport? Ma la passione è venuta nuotando perché i miei mi hanno portato in piscina che avevo solo 7 anni e non ero molto incline a praticare questo sport diciamo, anzi che non mi piaceva molto, però poi costretto perché comunque mia sorella nuotava già e quasi comunque per comodità sicuramente i miei genitori mi portavano in piscina perché comunque il nuoto fa bene per praticare uno sport, comunque anche d'inverno lo puoi fare al coperto e quindi tanti aspetti positivi, piano piano conoscendo gli amici giusti, entrando nell'ambiente giusto ho cominciato a divertirmi. È nata un po' la passione, diciamo. Ma quindi, diciamo, da ragazzino non si appassionava al calcio, non vedeva gli amici che andavano a giocare a calcio, per esempio, e lei doveva... Ma sì, ma infatti ho sempre giocato un po' a calcio, a calcetto con gli amici, non so, nel campo sportivo, vicino a casa. Io abitavo in un piccolo paesino di campagna, quindi ci trovavamo sempre sabato pomeriggio, la domenica, a giocare un po', oppure anche a scuola, fino a tutta la scuola superiore, giocare a calcetto è sempre stato un ottimo hobby. Sono un italiano vero e come questo mi piace molto il pallone. Senta, la giornata tipo dei nostri radioascoltatori, insomma, che ci stanno sentendo è sveglia, 7 vogliamo fare, poi prendere i mezzi o magari la macchina, non lo so, andare in ufficio, accompagnare i figli a scuola per chi ha figli, poi di corsa in ufficio, 8 ore al giorno, la pausa pranzo, poi tornare a sera, altro traffico, eccetera, eccetera. E poi in questo, e questa era la mia premessa, valutare fare anche un'attività appunto da scegliere per il dopolavoro, che il 90% delle volte la scelta cade sempre sulla palestra, che come dicevo con un po' di ironia si abbandonerà dopo qualche mese, perché una cosa della palestra è che uno inizia sempre con i buoni propositi e poi molla. Ma invece la giornata di chi nella vita fa lo sportivo, di chi nella vita è un atleta, come si svolge? Com'è la giornata tipo di un atleta? Beh, per quanto mi riguarda, e dico per quanto ci riguarda nell'ambito nuotatore, mi sento di parlare un po' a nome di tutti, nel nuoto bisogna allenarsi tanto, e quindi magari a differenza di altri sport in cui può bastare un allenamento al giorno, tipo il calcio, in cui raramente fanno le doppie sedute, noi abbiamo sempre le doppie sedute, quindi io mi sveglio la mattina abbastanza presto, e la prima seduta di allenamento dura due ore e un quarto, due ore e mezza, dipende da quello che c'è da fare, e poi torno a casa, mi pranzo, mi riposo un attimo e torno in piscina subito, cioè la seconda seduta dura di più perché c'è anche la palestra, e un'ora e un quarto di palestra e due ore di nuoto, quindi bene o male mi occupa un po' tutta la giornata, poi torno a casa stanchissimo, ceno, e guardo un po' di TV, poi vado a letto, poi non so se devo mangiare fuori con gli amici, cose molto tranquille comunque. Ma quindi alla fine, facendo una somma di tutte le ore passate proprio in vasca, durante nella giornata media quanto raggiungiamo? In acqua 4 ore, di allenamento in generale anche le 6 ore, 5-6 ore sempre. 5-6 ore, ok. Tranne chiaramente il sabato, in cui si fa un allenamento solo, e la domenica in cui non ci si allena. Salvo poi che non ci siano gare, quindi. Senta, in una diciamo giornata così impegnativa, spazio per il divertimento, amici, parte diciamo privata. Innanzitutto questa cosa, io facevo prima il parallelo per scherzare con la giornata impiegatizia, no? Che però di solito dura dal lunedì al venerdì, poi c'è il classico weekend. Ma per un atleta esiste il concetto di weekend? Esiste, sì, perché la domenica comunque è libera. Il sabato, come ho detto, va bene una volta sola, quindi già quando arrivo il venerdì e finisco il venerdì, la mia settimana diventa molto più leggera. Dico, il sabato già è una mattina libera, posso dormire, non so, vado a fare colazione fuori, mangio due paste, non so, cappuccino, succo, quello che vuoi, e poi mi arrivano il pomeriggio e basta. Dopo la sera si esce un po', chiaro che non è che faccio le 4 di mattina, però non so se devo andare al cinema o dove voglio, comunque ci vado, dai. Sempre che, come ho detto, il giorno dopo non ci siano gare. E poi la domenica è un giorno di riposo, quindi il weekend lo viviamo anche noi. Beh, insomma, penso che sia anche un riposo meritato e soprattutto fisiologico, nel senso che... Sì, no, soprattutto, perché comunque cioè, il problema principale della nostra vita è che... un impiegato, non so, va a lavorare stanco, ma è quasi una soluzione di fare. Noi invece mancano proprio le energie fisiche, cioè non stare in piedi dopo un po', e quindi finire la settimana è un'impresa, ma è un'impresa finirla ancora tutti interi. Senti, ma se dovesse, diciamo, dirci appunto per quanto riguarda questo argomento, una rinuncia più grande, parto con la rinuncia perché dopo ovviamente ci sarà una domanda sulla parte bella, che è quella che magari facilmente tutti si immaginano quando la vedono sul podio, insomma la vedono trionfante, però mi interessava, pensando a lei e alla vita in generale di un atleta, se lei dovesse pensare, insomma, alla rinuncia o il sacrificio più grande di una vita dedicata allo sport per adesso, qual è? Cioè, molti per esempio potrebbero pensare alla rinuncia al cibo o all'alcol o altri al fatto della diminuzione per esempio di privacy, visto che comunque volente o nolente è un personaggio pubblico, altri invece pensano al sacrificio degli allenamenti, che hanno 4 ore in vasca, 5 ore in vasca, dicono tu sei matto, io non ci riuscirei mai. Lei invece, se dovesse dire una rinuncia che le pesa, ecco, o che ci ha pensato, insomma, senza che le pesa, che comunque ci ha pensato. Che mi pesa non sono tante, anzi, forse qualche volta mi pesa il fatto di non avere energie per fare altro, perché io adesso non ho proprio neanche voglia di fare altro, perché sono talmente stanco quando finisco gli allenamenti che magari ci pensi, hai il buon proposito, ma dai, stasera andiamo a fare qualcosa, poi alla fine sei morto e quando dopo cena ti metti sul divano non ti alzi più, è quello, quindi la cosa che mi dà più fastidio, il fatto di non avere le energie per fare altro. Oppure sabato sera, so, raramente si va a ballare, no? E io vedo che quando arrivo a una certa ora mi viene la piomba, che e non ce la faccio, cioè, è impossibile. E da quel lato lì invece vedo gli altri supercarichi, però fortunatamente diciamo che alla fine il mio cerchio di amici si restringe con il nuoto, quindi bene o male abbiamo tutti gli stessi problemi, tutti gli stessi interessi, quindi da quel lato lì è più facile. Chiaro che quando per esempio esco con i miei vecchi amici d'infanzia che fanno la vita lavorativa normale, non vedo l'ora che è il weekend per spaccarsi, è chiaro che la vedo un po' più in maniera difficile, però sinceramente non sono rinunce così pesanti, magari mi mancheranno fra qualche anno, in questo momento non mi mancano. Beh certo, è anche in un momento della sua vita insomma molto, molto intenso e molto impegnativo, e anche insomma con... Nella presentazione, insomma, i radioascoltatori hanno sicuramente sentito gli ottimi risultati, insomma, conseguiti. Un altro luogo comune sul nuoto, però, e noi il luogo comune che trattiamo è che è lo sport più completo, e adesso ci arriviamo. Ma un altro luogo comune sul nuoto vuole che sia uno sport noioso. Io parlando con i miei amici, quindi che non sono i suoi amici e non sono i suoi colleghi di lavoro, ma parlando con i miei colleghi di lavoro, quindi facciamo una vita sicuramente più da pantofolai, più da divanai, e lo sport è, uh-huh, è quello di Sky la domenica, no? E parlando, dici, ma tu che fai? No, guarda, io mi sono iscritto in palestra, no? In palestra, che rottura, e tu, ma io vado a correre un po', dice, poi c'è sempre uno che se ne esce dicendo, ma guarda, io invece faccio la piscina, dice, piscina? Ma sì, no, tutti appunto dicono, la prima cosa si dice, ma è lo sport più completo, bravo, fai bene, e poi però c'è sempre chi se ne esce dicendo, sì, vabbè, però è anche, insomma, piscina... Due scatole così, insomma, sport noioso. Lei è in grado, guarda, diciamo, di smentirlo? Sì, assolutamente sì, perché io credo che non bisogna mai andare a nuotare da soli. È chiaro che nel momento in cui tu puramente nuoti, è chiaro che non puoi parlare con qualcun altro, a meno che tu non faccia, non so, gambe con la tavoletta, allora fai anche delle chiacchiere, così. Però io vedo sinceramente, per esempio qui a Imola dove sto io, c'è grande entusiasmo nella maggior parte delle persone che vengono a nuotare. Per esempio c'è un gruppo di pazzi che la piscina apre alle 7, perché comunque noi ci alleniamo prestissimo la mattina, c'è un gruppo di pazzi che viene a nuotare prima di lavorare, ma sono carichissimi, arrivano in piscina la mattina alle 7, sembra che abbiano tirato 10 km di strisce di cocaina, una cosa incredibile, veramente. Invece sono semplicemente, si alzano dal letto, si buttano in acqua, ed è un modo meglio di qualsiasi altro modo per iniziare la giornata, perché poi magari sì, sei un pelo stanco fisicamente, però sei anche molto più sveglio e molto più reattivo. Forse farai più fatica ad arrivare a fine serata, però intendo poi quando arrivi a casa la sera. Invece parlando con loro dice proprio che affronti la giornata con un piglio diverso, e oltretutto sono sempre un gruppo di 3, 4, 5, anche 6 persone che si fanno delle grandi risate tra un 50 e l'altro, tra una vasca e l'altra, ridono, scherzano, si sfidano soprattutto, che è molto bello. Ma infatti se uno, non so, dovesse, se lei dovesse parlare diciamo allo sportivo medio, quello classico appunto che abbiamo detto, lavora e sta scegliendo uno sport, invece perché il nuoto pro, e se ce n'è qualcuno, che so che lo sto chiedendo alla persona sbagliata, però io la butto là, se c'è anche qualche contro? Il contro c'è, per esempio, che l'ambiente della piscina spesso non è molto igienico. Questo mi viene a dire perché vivendo gli ambienti delle piscine, vivendoli troppo spesso, mi rendo conto che è una problematica anche questa. Per esempio l'aria non è un'aria molto pulita, è un'aria un po' pesante in cui ci sono tutti i vapori del cloro dell'acqua. E questo non fa bene, per esempio, anche al respiro, ai polmoni, quindi frequentare troppo, come facciamo noi, un ambiente come la piscina provoca diversi problemi. E, per esempio, in questo momento sono molto raffreddato, come si sente, faccio fatica un po' a respirare, ed è chiaro che frequentando, come hai detto, l'ambiente della piscina sei più soggetto a marchi di questo tipo raffreddore, tosse, cose del genere. Bisogna stare sicuramente molto più attenti. Ok, e invece se per esempio i pro di un'attività insomma in piscina? Beh, innanzitutto secondo me imparare a nuotare è fondamentale per la vita di chiunque, ma anche per la sicurezza. Cioè, quando vai al mare come fai? Cioè, può sempre capitare di doversi buttare in acqua, non so, per qualsiasi cosa. Cioè, nuotare per me è fondamentale per l'uomo. E poi altri pro, come ho detto prima, il divertimento, fare qualcosa di diverso, più che il solito palloso, andare in palestra, correre sul tapis roulant. E tra l'altro anche per esempio il fascino dell'acqua, è l'unico sport comunque che puoi fare in un ambiente diverso. Tutto il resto vai a correre, non so, come ho detto, vai in palestra, anche se vai a giocare a calcio, bene o male lo sforzo è simile. Invece comunque se tu vai a nuotare, stare nell'acqua ha il suo fascino. C'è molte persone che io sento, questo va un po' al contrario di quello che ho detto prima, di andare con gli amici per divertirsi, lo fanno per avere un po' di tempo per se stessi, perché comunque mentre nuoti, se magari ti ammassi di fatica, però hai anche, puoi pensare, puoi rimuginare un po' sui tuoi pensieri, su, non so, su qualsiasi cosa. Un paio di anni fa c'era, diciamo, il mito per noi, appunto, che seguiamo i giornali, e diciamo, ovvero il nuotatore statunitense Michael Phelps, no? E tra gli amici si magnificava questa sua leggendaria dieta da, oddio mio, quanti erano? Qualche migliaio di calorie. 12.000 calorie. E ovviamente. Sì, mi ricordo, perché anche tra di noi fece scalpore. Ma ovviamente tra insomma i miei amici, i miei colleghi, quelli ovviamente, ma senza, proprio senza nemmeno dirlo, quelli con più panza, dicevano beato lui, 12.000 calorie, e appunto mi ricordo che pensavamo un pochettino come si poteva raggiungere 12.000 calorie durante il giorno. Allora io le chiedo, appunto, mi sento di dire che era una leggenda metropolitana, perché io ho fatto i conti cioè stando attento alle calorie che posso arrivare consumando, ma io al top, proprio quando mi alleno di più, che faccio 2-4 ore di nuoto, un'ora di palestra e un'ora di corsa, così arrivi a 6.000, massimo 7.000 calorie, di più non ci puoi arrivare, è disumano. Quindi io non... E poi non so se avete visto anche quando faceva vedere che cosa avrebbe dovuto mangiare per ingurgitare così tante calorie. È disumano, è impossibile. Il suo fegato sarebbe esploso, secondo me. Sì, però lo vogliamo anche dire che, ok, lasciamo perdere le sue 12, ma anche facciamo le 5.000, non lo so, insomma, quello sì. Che è. Però non sono di carbonare... E cioccolata, non è una dieta di cioccolata e carbonara, cioè sono 7.000, però molto, mi corregga se sbaglio, sono molto mirate allo sport di cui stiamo parlando, cioè, quindi che cosa? Sì, immagino molte proteine, che cosa? Sì, molte proteine, che però diciamo le proteine non sono molto caloriche, e quindi le proteine sì, ci vanno, poi dipende anche dai periodi di allenamento, periodi di massimo carico, l'apporto proteico è importante. Però senza esagerare, perché comunque le calorie le fai con i carboidrati, però con i carboidrati giusti, non è che mi posso mangiare un pacchetto da un chilo di tarallucci perché mi piacciono, tipo biscotti, parlo per me, io sto per esempio la mattina mangio tè col miele, poi biscotti secchi, quindi, però ne mangio tanti di biscotti secchi, ma tanti. Perché comunque una colazione deve farmi fare un allenamento intero, e quindi deve apportarmi dalle 1000 alle 1200 calorie. Lei che rapporto ha col proprio fisico? Cioè lei sta molto attento ai segnali del proprio corpo, al peso, diciamo alla reazione dei muscoli? Abbastanza, devo dire, ma un atleta secondo me ci fa l'abitudine alle sensazioni che ti dà il tuo corpo, perché alla fine è il nostro, è come un pilota alla moto o alla macchina, noi abbiamo il nostro corpo e quindi ci devi stare attento per forza, anche se Comunque, come ha detto, le quantità nel cibo giusto non sono un problema, quindi abbiamo anche modo di sfogarci sul cibo, nel senso, io sono una persona a cui piace moltissimo mangiare, chiaro che non mangio un chilo di patate fritte non le tocco neanche, però, non so, una patata al forno la posso mangiare, oppure, non so, la pasta ne mangio abbastanza, perché la pasta è buona e comunque la pasta ha i giusti nutrienti. E invece quando il corpo non si comporta come dovrebbe, per esempio nel caso di un infortunio, oppure... Infatti, io, guarda, non so se lo sapete, ma io sto recuperando da... Sì. Una crociata. Nel settembre, che è settembre 2013? Sì, settembre 2013 mi sono rotto il ginocchio, crociato i menischi, e sono alla fine del recupero, adesso dai, sto andando bene. Tra l'altro durante una sessione di allenamento? Sì, però allenamento a secco. Che vuol dire, mi scusi? Chiaramente vuol dire in palestra. Ah, ok. Nello specifico stavamo correndo, ho fatto un salto, sono atterrato e non ho idea di come ho fatto, gamba tesa, un movimento strano, una cosa molto naturale, però sinceramente si vede che in quel momento ero gamba così, non mi sono mai fatto male. E in quel momento, diciamo, nel momento appunto in cui, come in questo caso, per esempio, c'è stato un infortunio che, ok, va bene, la coincidenza è stata un pochino sfortunata, ma veramente può capitare a chiunque di noi, a chiunque gioca a calcio, calcetto, per esempio, eccetera. In quel momento, diciamo, l'infortunio dell'atleta viene visto in maniera particolare, con particolare apprensione, angoscia, oppure, diciamo, si mantiene sempre la calma, si cerca sempre di pensare a subito un recupero, ecco, un recupero velocissimo. Ma è normale che lungo il tutto il periodo del recupero, adesso io posso dirlo perché sono già alla fine, anche se mancherà ancora probabilmente più di un mese, ne ho già passati più di 4, quindi comunque sono alla fine. Posso dire che in tutto questo periodo ci sono i momenti un po' di sconforto in cui magari vedi anche gli altri gareggiare, cioè non ci sei, ti verrebbe voglia. E soprattutto in cui ti chiedi, ma riuscirò a tornare quello di prima? Poi alla fine... E vai a vedere i puri dati, riuscendo a ragionare a mente fredda, e dici: ma è una cagata, nel senso che, scusate la parola, ormai il crociato, comunque, per dire, per me è un infortunio abbastanza grave, però succede, ci vuole solo tempo e tutti recuperano, quindi non è un grosso problema. Sicuramente. Semplicemente bisogna riuscire a stare calmi, cambia un po' la tua routine, invece che allenarti come prima, per esempio per questi 4 mesi invece che fare 2 sessioni di allenamento nuotavo solo al pomeriggio e tutta la mattina facevo riabilitazione, quindi... Senta Fabio, alla fine diciamo comunque abbiamo parlato della dieta, abbiamo parlato della sua giornata di lavoro allenamento, insomma abbiamo parlato un po' della parte bella e anche dei sacrifici. Alla fine di tutto questo percorso arriva la gara vera e propria. E poi arriva anche il risultato finale, e come ho detto nella presentazione appunto a questa puntata, sono stati bei risultati. Allora, sono stati anche dei brutti. Allora, proprio questa è la domanda. Che cosa si prova nel momento in cui si sta per partire, quindi sta per iniziare la gara, e che cosa si prova quando la gara è finita e il risultato è stato positivo o negativo? Mi dica un po' lei. Ma prima della gara... Sinceramente, arrivati a questo livello, bisogna essere bravi a essere freddi. Quindi più freddo sei e più riuscirai a esprimere tutto quello per cui hai lavorato. Perché nessuno, nello sport in cui facciamo noi, non esiste l'exploit. Tu non puoi fare più di quello che hai. Tu puoi dare al massimo il 100% di quello che hai fatto, di quello per cui hai lavorato, non di più. Non esiste la botta di culo, per dire. Quindi più riuscirai a stare freddo e concentrato, più ti avvicinerai a quel 100%, perché tanto tutti sbagliano, vince chi sbaglia di meno. E quindi bisogna pensare, non bisogna stare lì a pensare, ma l'avversario che è di fianco, chissà cosa fa lui, ma se va male, cosa faccio? E semplicemente avere una specie di schema, anche motorio, di cose da fare, esercizi di stretching, di riscaldamento da fare, di modo che tieni la mente occupata. E è il modo più facile per indirizzare i tuoi pensieri nel modo giusto. E, diciamo, per queste sono cose che impariamo con psicologia dello sport, comunque mental trainer, sono cose che vengono dal nulla. E poi per quanto riguarda il dopo gara, beh, se la gara è andata bene, è chiaro che è un'esplosione di gioia, ma per quanto mi riguarda è quasi una liberazione, perché hai raggiunto quello che ti aspettavi e quello per cui hai lavorato. E quindi io mi immagino una classica botta di adrenalina, non so, che si prova, cioè prendere l'oro, cioè sì, vincere la medaglia d'oro, che si prova? Sei intontito, sei, non so, che... misto tra, come hai detto te, tra una botta di adrenalina in cui esulti, sei contento, e come ho detto io, come mi viene da dire, scusatemi, ma come un orgasmo, cioè quando tu hai finito è una liberazione, è una cosa, è un senso proprio di pace, di serenità, visto l'adrenalina che ho detto prima, quindi è una cosa molto, è una sensazione molto bella. Senti, in caso invece negativo è una cosa che cerchi di far finire subito la delusione o l'incavolatura, oppure magari te la porti appresso? Per quanto mi riguarda, io cerco di guardare subito avanti. Infatti la cosa migliore è avere un'altra gara, oppure anche dopo poco ricominciare ad allenarsi e ripartire con una grande voglia di rivincita, perché è l'unico modo in cui incanalare un po' le energie negative che hai in quel momento lì, quindi incanalare un po' la rabbia, e pur essendo comunque freddo, a giorni di distanza, nell'analizzare quello che puoi aver sbagliato, quello che si può essere sbagliato sia in preparazione che tu nel giorno della gara. E quindi è un insieme di cose che però provengono da una sensazione molto brutta, perché quando tu arrivi e tocchi il muro e ti giri il tabellone, visto che comunque sei andato male, è chiaro che la delusione è enorme, soprattutto perché noi, diciamo, appuntamenti importanti ce li abbiamo di tre mesi, addirittura di anno in anno per quelli più importanti, un'Olimpiade in 4 anni, quindi... Sì, no, non è che puoi recuperare la settimana dopo, insomma. No, esatto. Come è stato per me, per esempio, l'Under 2012, in cui potevo prendere la medaglia e ho sbagliato la finale, sono arrivato settimo. Per me è stata una delusione incredibile. Ci ho messo un po' più tempo a smaltirla, qualche giorno, però poi sono tornato sotto con voglia di rivincita e a dicembre, 4 mesi dopo, ho vinto i mondiali. Quindi per me è stato importante tornare subito in acqua e trasformare quella rabbia che avevo. Senti, a questo proposito, impegni futuri, obiettivi, che cosa c'è nella testa adesso? Ma adesso, come ho detto prima, nella testa più che altro tornare al 100%. Andrò in America 5 settimane, dal 4 febbraio, e andrò un po' al caldo, a cambiare un po' aria, allenarmi con uno dei miei principali avversari, per imparare qualcosa, per stimolarci un po', comunque siamo in buoni rapporti e quindi sarà una cosa molto interessante. Poi quest'estate a Berlino ci sono gli europei e a fine anno ci sono i mondiali in vasca corta. Poi dopo comincerà il biennio olimpico con i mondiali in vasca da 50 l'anno prossimo in Russia e le Olimpiadi a Rio. Quindi hai un'agenda fittissima, per così dire, insomma, sì. di impegni. Senti, il tempo a nostra disposizione è finito, Fabio, tra l'altro ti do del tu, perché insomma classe 88 sei veramente giovane. Siete nell'ambiente, siete scaramantici, cosa si dice per salutare uno sportivo? Ce ne sono tantissimi scaramantici. Dimmi tu come ti devo salutare, perché non voglio fare gaffe. Io non sono scaramantico, comunque generalmente gli auguri portano sfiga, si dice così, no? Dice proprio, se uno ti saluta e dice auguri, ti tocchi, perché però diciamo che no, la scaramantia fa poco parte di me. Quindi in bocca al lupo va benissimo. Vedi, perché nel mondo dello spettacolo hanno risolto tutto con, non so se lo sai, che prima di uno spettacolo, insomma, loro dicono sempre merda. Loro ripetono. Merda, sì. Lo ripetono. Ci vorrebbe anche una cosa simile nel mondo dello sport. Comunque, Fabio, io, insomma, gli auguri portano sfiga, quindi, insomma, non te li faccio in tal senso, però sappi, ma sicuramente lo sai poi dagli attestati di stima che ti arrivano, che veramente tante persone, insomma, ti seguono e ti supportano, ecco.